con una incredibile autostima, anche se molti possono non crederci. E perciò, insomma, ci ho pensato bene prima. Adesso che ho fatto il disco e ho visto il risultato, ne sono molto contenta, ne sono entusiasta. E quindi per me ho già avuto il mio successo in qualche modo, non so come dire, tutto quello che arriva poi sarà grasso che cola. Cioè, sia la fragilità di una notte di incubi, sia la forza di un momento in cui ti arrabbi e spacchi tutto. E tutto questo è molto femminile, peraltro, cioè viene fuori una bella immagine della donna, anche delle donne che guardi e nelle quali non ti rifletti e non ti riconosci, però le guardi. Sì, sì, sì, sono, come dicevo, sono molto curiosa e mi piace guardare le persone, mi piace, sono anche piuttosto analitica. Sì, in effetti è vero, c'è questo tipo di pensiero, di analisi, c'è questo tipo di anche di attitudine femminile, ma secondo me tutto sommato anche maschile, se poi se switchi la cosa nei confronti di un uomo, tutto sommato c'è comunque, ecco, diciamo che magari c'è una forma di passionalità piuttosto forte e anche di, appunto, di analisi nei confronti di una serie di situazioni. Tu fai riferimento alla prima scelta quando dici che c'è una sorta di nuovo mi ripeto, di analisi nei confronti delle donne e di un certo tipo di donna, di un certo tipo di figura femminile. Sono critica nei confronti di quella tipologia più che altro perché mi dispiace che in Italia si creda di aver raggiunto una parità sessuale e una posizione nei confronti, cioè una posizione della donna nella società che in realtà non esiste, secondo me c'è un'illusione totale, anzi io amo molto le donne così come amo gli uomini, quindi io mi ritengo una femminista ma nel senso buono del termine, vorrei vedermi e sentirmi rappresentata molto di più rispetto a quello che vedo nei giorni nostri. A livello istituzionale non mi piace come è vista la donna, lo spazio che ha. C'è un dislivello, c'è un modo di trattare le donne che non è paritario, non esiste la parità. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi. Voci in Scena torna domani alla stessa ora.